riportava un elemento di pericolosità vero, che era una adiacenza o comunque una distanza inferiore a quanto previsto dalla norma per la sicurezza tra impianto elettrico, naturalmente incamiciato, e i gas e i tubi dei gas medicali. Il silenzio intercorso tra l'osservazione e il mio intervento ha creato un periodo di effettivo pericolo, che se le gallerie fossero state realmente pericolose si sarebbero dovute chiudere. Il programma prevede la totale dismissione dei gas medicali, ma perché questo vuol dire che il livello di pericolosità è dichiarato, il livello di pericolosità di un gas medicale o l'eventualità di un incidente per un gas medicale non è compatibile con le gallerie. Questo è dichiarato dall'inizio dell'appalto del 2007, cioè si dice le gallerie non devono contenere gas medicali. Dopodiché il punto è che insieme a questa dichiarazione sono stati fatti tutte delle operazioni di contenimento dell'eventualità del rischio, perché in alternativa si sarebbe dovuto chiudere l'ospedale. Insieme al programma di dismissione si sono messi in essere tutti quegli interventi e quelle protezioni che ne rendevano il rischio compatibile con l'attività. Sono uscite delle cifre che sono assolutamente false, ma lo stesso servizio di prevenzione e protezione a un certo punto ha mandato un fax all'ufficio tecnico dicendo: io non ho mai verificato, ed è un termometro che lo dice, quindi non è un'opinione, i gradi riportati dal giornale La Repubblica. Anche se la situazione è in evoluzione e i programmi di bonifica partiranno nell'arco dei prossimi mesi, non ci sarebbe nessun pericolo per i pazienti e gli operatori che si trovano al di sopra delle gallerie ipogee, ha affermato il direttore sanitario del Policlinico Vincenzo Renzini. Una cosa è certa, situazioni di rischio così come sono state paventate non ce ne sono mai state e non ce ne saranno. Io ovviamente come direttore sanitario, se non fossi tranquillo e non fossi stato tranquillizzato anche dai tecnici, chiaramente mi sarei preoccupato per pazienti, operatori, eccetera. Una situazione di rischio c'è stata, immediatamente eliminata, come in genere cerchiamo sempre di fare. Credo che ognuno debba fare la sua parte, sono stati ritirati i documenti, è giusto che sia così. È giusto che sia così e che si verifichi il tutto, perché anche noi come azienda Policlinico ci teniamo che tutto venga verificato e che appunto venga dimostrato che insomma alla fine non tutta questo risalto a cui è stato dato rientra anche in un normale andamento di lavori di un ospedale e nella anche terminare alcuni lavori che già sono stati iniziati proprio per renderlo ancora più sicuro. Ridurremo al massimo, quindi io ho chiesto e chiederò comunque, cioè ho già chiesto al nostro servizio tecnico di limitare al massimo i tempi per terminare questi lavori. Il rapporto del servizio prevenzione e protezione effettuato dopo il sopralluogo del 17 ottobre è ora nelle mani della Procura della Repubblica di Roma. È prevista un'altra definitiva consulenza tecnica disposta da parte del pubblico ministero Roberto Cucchiari. Per adesso ancora non abbiamo fatto tutto, sarà fatto un sopralluogo, adesso dobbiamo valutare il sopralluogo e probabilmente dobbiamo fare una consulenza. Su quella cosa specifica che è nella denuncia, ma noi dobbiamo approfondire alcune cose. Per adesso non c'è nessuna cosa, non mettiamo diciamo allarmi che non ci sono. Verificare queste condutture, i lavori che stanno facendo, perché lì c'è un corso dei lavori. La seconda edizione di Italia in controluce, torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.